GR24, il sole 24 ore. La povertà colpisce l'11,1% delle famiglie, in Italia più di 8 milioni di persone. Lo spread sale a quota 490. Nessun passo indietro da Nicole Minetti. Ancora alto lo scontro istituzionale sui rapporti tra Stato e mafia. Buongiorno dalla redazione da Adriana Fracchia. In primo piano il rapporto dell'Istat sulla povertà in Italia. Nel nostro paese ci sono 8 milioni di persone che vivono con 500 euro al mese, in condizioni cioè di povertà relativa. La soglia, individuata dall'Istat, che corrisponde a un nucleo familiare di due persone con un reddito di 1.000 euro mensili, un fenomeno che riguarda l'11,1% delle famiglie. Di queste il 5,2% è povero in termini assoluti, cioè non ha le possibilità economiche per soddisfare i bisogni primari. Si tratta, dice l'Istat, di numeri stabili, ma che sono il frutto di un cambiamento. La povertà cresce infatti nelle famiglie senza redditi o con redditi da lavoro operaio, un fenomeno però compensato dalla diminuzione della povertà nelle famiglie di dirigenti e impiegati. Per esempio, tra le famiglie operaie la percentuale di povertà assoluta è salita dal 6,4 al 7,5%, mentre sfiora il 10% se il capofamiglia possiede la sola licenza elementare. Cresce anche l'incidenza al sud, dove ben il 23,3% delle famiglie sono relativamente povere, con punte del 27% in Sicilia e del 26% in Calabria. Alessio Maurizi, Radio 24, il Sole 24 Ore. E ora diamo uno sguardo all'andamento dei mercati finanziari, lo facciamo con Deborah Rosciani, buongiorno. Buongiorno, seduta a doppia faccia per i listini europei che sono positivi da questa mattina, ma per la verità a metà mattinata hanno avuto un andamento decisamente migliore. Milano è arrivata a guadagnare addirittura quasi un punto percentuale per poi frenare a più 0,27%, più 0,27% anche a Parigi, più 0,22% Francoforte, meno 0,37% invece Londra. Per qualche listino dunque l'area sta cambiando. L'euro sul dollaro a 1,22,83, ma a disturbare è ancora lo spread. Dopo il nuovo intervento di Moody's, che è arrivato appunto a declassare, come nelle attese perché è un intervento automatico dopo la riduzione di giudizio sul debito sovrano, ha declassato 10 banche italiane, 3 istituzioni finanziarie e dunque oggi sono state colpite Unicredit, Intesa San Paolo ed altre società per l'appunto. Quindi anche questo elemento questa mattina deprime un po' il corso della borsa, ma soprattutto aumenta lo spread, che è arrivato di nuovo a 490 punti base per assestarsi adesso a 485. Da segnalare che c'è stata un'asta di titoli di Stato spagnoli con rendimenti in forte ribasso e quindi almeno questo elemento questa mattina rassicura un po' il mercato. A Piazza Affari i migliori titoli: Ansaldo più 3,45, Salvatore Ferragamo più 2,63%. Un'ultima indicazione: ricordiamo che oggi i mercati attendono l'intervento al Senato americano da parte del presidente della Federal Reserve Bernanke, che cercheremo di capire se darà indicazioni appunto sul futuro della politica monetaria americana. Per ora è tutto. Grazie a Deborah Rosciani. Accordi scaduti, produttori che approfittano della confusione politica, le sollecitazioni al governo. I distributori di benzina saranno chiusi, self-service compresi, da venerdì 3 a domenica 5 agosto. Lo hanno deciso le organizzazioni dei gestori Fibe Confesercenti, Fegica Cisle, Figes Canis, Confcommercio, che accusano l'industria petrolifera di spingere al fallimento i gestori e il governo di assistere mutuo alle violazioni delle leggi. In cantiere una serie di proteste e mobilitazioni. A giugno le immatricolazioni del gruppo Fiat in Europa hanno subito un calo del 16,7% a 79.927 unità contro le 95.900 di un anno fa. Nel mese di maggio le vendite in Europa del gruppo torinese avevano ceduto il 12,1%. La quota di mercato si attesta al 6,4% in calo rispetto al 7,5% di un anno fa e rispetto al 7,2% di maggio. Il Lingotto dice il gruppo è penalizzato dal pessimo risultato del mercato italiano. È ancora boom per Jeep e bene anche Lancia. Il titolo sale dopo i dati sulle immatricolazioni. Nessun passo indietro da Nicole Minetti, la consigliera regionale della Lombardia di cui sono state invocate le dimissioni. Stamani era al suo posto al Pirellone. Sentiamo. Nicole, si ferma. Per ora è arrivata lei, ma non le sue dimissioni. Rientrata da Porto Cervo, abbronzata e puntuale, Nicole Minetti è entrata al Pirellone per il consiglio regionale, ma per il bene di tutti, ha detto, non ho intenzione di rilasciare dichiarazioni. Giacca bianca Chanel, pantaloni neri, gli obiettivi sono tutti per lei, mentre il presidente Formigoni tiene la relazione sull'Expo. Quel passo indietro invocato e sollecitato all'ex igienista dentale di Berlusconi dagli stessi vertici del PDL che la vollero nel listino bloccato, quella rinuncia data per imminente in realtà per ora ancora non c'è stata. Resiste Nicole, imputata nel processo Ruby, perché sarebbe ancora trattando la sua uscita anticipata dalla scena politica, troppo precoce per avere anche il vitalizio che scatta ad ottobre. Una delle ipotesi sul piatto per lei sarebbe un incarico in TV, ma proprio come il PDL si divide tra chi attacca sempre di più e chi difende l'ex di Colorado Café, così anche all'interno di Mediaset ci sarebbero forti frizioni all'ipotesi di un suo ritorno nel gruppo della famiglia Berlusconi. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Resta ancora alto lo scontro istituzionale sui rapporti tra Stato e mafia, ma ci aggiorniamo su questo con Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Rapporti tra istituzioni e magistratura, limiti allo strumento delle intercettazioni, temi che sono tornati prepotentemente in prima pagina dopo l'accelerazione impressa dal capo dello Stato che in merito all'operato dei PM di Palermo ha chiamato in causa la Corte Costituzionale. Di fatto la richiesta di Napolitano è che la Consulta dirima l'evidente conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, una scelta estrema che ha un solo altro precedente nella storia della Repubblica, quando Ciampi fece lo stesso con l'allora ministro della Giustizia Castelli, che non voleva concedere la grazia a Pressi. Napolitano, spiegano fonti del Colle, non ne fa tanto una questione personale quanto un fatto che riguarda l'integrità della Presidenza della Repubblica, tanto basta comunque perché tra le forze politiche si riapre il tema delle intercettazioni, la magistratura, dice D'Alema, non può violare la legge, tantomeno la legge suprema, spetterà la Corte Costituzionale, aggiunge l'esponente PD, a accertare se ciò sia avvenuto. Cicchitto, Popolo della Libertà, commenta, c'è un settore della magistratura che vuole affermare il suo predominio su qualunque istituzione dello Stato, le intercettazioni devono essere ulteriormente regolate. È tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Miglietta. 6 arresti nel Regino nei confronti di presunti affiliati alla cosca Nasone Gaglietti di Scilla nell'ambito di indagini sulla pressione estorsiva esercitata su imprenditori impegnati nei lavori di ammodernamento dell'autostrada A3. Decine, secondo l'accusa, i danneggiamenti effettuati per imporre la forza intimidatrice. Decisiva la collaborazione di alcuni imprenditori che hanno deciso di denunciare le estorsioni. Operazione della DIA, del NOE e dei Carabinieri con provvedimenti del GIP di Napoli nei confronti del gruppo caseario Mandara, marchio nazionale ed internazionale della commercializzazione della mozzarella DOP. Beni per 100 milioni di euro sono stati sequestrati al gruppo Mandara, marchio noto in campo nazionale e internazionale per la commercializzazione della mozzarella DOP, dal centro DIA di Napoli. Il titolare della Mandara, Giuseppe Mandara, è stato arrestato con alcuni suoi collaboratori. Il provvedimento è stato emesso dalla GIP del Tribunale di Napoli su richiesta dei PM della DDA. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa e reati in tema di tutela della salute pubblica. Il gruppo imprenditoriale guidato da Giuseppe Mandara sarebbe vicino alla clan dei Casalesi, come conferma Maurizio Vallone, capocentro DIA di Napoli. Nasce negli anni 80 e dopo alcune difficoltà economiche si rivolge a esponenti del clan dei Casalesi per ottenere dei grossi finanziamenti con cui espande in maniera enorme la sua azienda, portando al valore attuale che è di circa 100 milioni di euro. Paolo Picone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Brucia il Parco Nazionale del Pollino, il fronte del fuoco è di oltre 3 km da Montecanino a Conca del Re, le fiamme si starebbero propagando verso Dolcedorme, dove c'è il rischio che vadano in fumo i pini loricati. Questo lo fa sapere anche il presidente del parco, Domenico Pappaterra, che parla di attacco a 360 gradi con più focolai e più inneschi disposti scientificamente, oltre al favore del vento. E ora gli esteri. L'India ha chiesto agli Emirati Arabi Uniti di fare luce sull'uccisione di un pescatore e il ferimento di altri tre da parte di una nave militare americana. È successo nel porto di Jebel Ali, il più grande del Medio Oriente, usato dalla marina militare americana ma frequentato anche da pescherecci locali. Fonti militari statunitensi hanno spiegato che prima di aprire il fuoco le squadre di sicurezza avevano allertato il peschereccio che si stava avvicinando troppo. Rammarico è stato espresso dall'ambasciatrice USA a New Delhi per l'incidente. E ora la situazione in Siria: si spara nel centro di Damasco. Dalla periferia la guerra è ormai arrivata al cuore della Siria. È ormai Damasco il teatro della dura e sanguinosa battaglia tra il regime di Bashar al-Assad e i ribelli. Nella capitale si levano colonne di fumo nero e spuntano barricate per le vie dove il conflitto ha assunto definitivamente i contorni di una guerra civile. I ribelli siriani hanno annunciato ieri sera il lancio di un'operazione su larga scala, soprannominata il Vulcano di Damasco. A guidarla è il comando congiunto di Homs, la città da dove mesi fa è partita la rivolta, e il Consiglio Militare dell'Esercito Siriano Libero. Operazione che, almeno ufficialmente, è cominciata alle 20 di ieri sera, ma che da giorni prendeva corpo nelle strade della città, mentre la diplomazia sembra aver fallito. I negoziati alle Nazioni Unite per il rinnovo del mandato degli osservatori sono a un punto morto, con l'Occidente che insiste per una nuova minaccia di sanzioni e la Russia che ipotizza il ricorso al suo diritto di veto. A preoccupare è anche la grande riserva di armi chimiche di cui dispone la Siria. Lo dicono ormai senza riserve i diplomatici siriani che stanno abbandonando il regime per rifugiarsi in Occidente, e Bashar al-Assad le avrebbe già utilizzate per fermare i ribelli. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen è oggi a Roma, dove incontrerà prima il presidente Giorgio Napolitano e poi il premier Mario Monti. Al centro degli incontri ci saranno la ripresa delle trattative di pace, la collaborazione tra le ONG italiane e l'autorità palestinese e l'acuirsi della crisi economica che sembra aver colpito anche i territori. E ora in chiusura parliamo dell'anniversario della nascita del blog. Era il 18 luglio 1997 quando lo sviluppatore statunitense Dave Weiner annunciava la nascita di Frontier, il primo strumento per tenere un diario. Insomma, l'archetipo delle piattaforme che sarebbero diventate famose come WordPress o Blogger. In uno dei primi siti creati con la piattaforma di Weiner, Robert Wisdom, era stato coniato il termine weblog. Poi fu Peter Merholz ad abbreviare. Ho deciso di pronunciare la parola weblog come weblog, scrisse, o blog per brevità. La rivoluzione? Consentire anche a chi non era professionista di fare informazione. Nella parola amatore è contenuto il concetto di amore, spiegava Weiner. Gli amatori non sono inferiori ai professionisti, hanno più passione e non sono vincolati dal fatto che col loro lavoro devono pagarsi le bollette. Vero o falso, la rivoluzione dei blog iniziò con lo scandalo Lewinsky, divenuto pubblico grazie a un post sul Drudge Report. Nel 2000 in Italia arrivò Dago Spia. 15 anni dopo la nascita di Frontier, oggi ci sono oltre 180 milioni di blog. Ora però il microblogging e i social network hanno cambiato nuovamente il panorama. Messaggi brevi e rilancio di contenuti altrui. E se il presente è fluido e in continuo mutamento, il futuro è sicuramente imprevedibile. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questo notiziario curato da Daniele Biacchessi. Un ringraziamento in regia a Matteo Comes, un saluto e un augurio di buon pomeriggio da Adriana Fracchia. GR24 torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.